vita passata a scolpare. Non è certo la mia aspirazione, voglio fare il pirata, maledizione! Non saranno tollerate, tantomeno autorizzate, estorsioni, sottrazioni di altrui beni, indebiti, appropriazioni, furti, assalti al di fuori di rigide, precise regole e convenzioni, a norma di legge sarà punita ogni violazione. All right, Caesar. Geremia è solo un ragazzo, vive accanto a casa mia, ma sta già pensando al suo domani. Operaio come suo padre, non vuole diventare, sua madre gli dice: vai a lavorare! Ha già trovato la soluzione, fare il pirata dell'audiovisione!